bella cruda spiaggia, dove il mostro vorace sazierà nel tuo sen l'ingorda fame. E coi mostri più feroci e più crudi io non pavento, mi apriva le catene, non giungeranno a questo cor. La barca come si spaventava gli occhi miei quanto l'amor di quel fennone. Costei che di macigno all'alba in seno si incatena quel sasso, è giusto che al fin pera lacerato da un mostro un cor di pera.